Garibaldi fu ferito ad una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1867, la sconfitta di Mentana cancella i sogni di Garibaldi. La marcia trionfale dell'austriaco Hallmayr, che Papa Pio IX ha adottato dal 1857 come inno pontificio, è risuonata molte volte in Roma in questo novembre 1867. La vittoria di Mentana contro i volontari garibaldini, ottenuta dai soldati del Papa e dai francesi accorsi a Roma in soccorso allo Stato della Chiesa, è da ricordare perché si tratta magari di un episodio fortunato, ma che sicuramente rafforza la resistenza della Roma papalina. Almeno finché la Francia di Napoleone III continuerà a sostenerla. La battaglia è stata quasi inattesa. Il 3 novembre pontifici e francesi si sono mossi da Roma lungo la vecchia Nomentana proprio nel giorno in cui Garibaldi aveva deciso di partire verso Tivoli con l'intenzione di sciogliere la legione dei volontari falcidiati dalle diserzioni. I due eserciti si sono incontrati e quindi scontrati a Mentana. I garibaldini, circa 4.000 con due soli cannoni, si sono trovati di fronte 5.500 pontifici e francesi con diverse batterie, e i soldati di Napoleone III hanno potuto contare anche sul nuovo fucile Chassepot a retrocarica, che permette di sparare 12 colpi al minuto. Un'arma eccezionale che la propaganda francese ha subito trasformato nel segreto della vittoria. Le Chassepot fait merveille, ha riferito nel suo dispaccio a Parigi il generale Defeuilly. Diverse testimonianze però dicono che il fucile, pur utile, non è stato così determinante. A decidere è stata invece la difficile posizione dei garibaldini asserragliati in Mentana e l'arrivo degli zuavi francesi in marcia lungo la valle del Tevere verso il fianco destro, sulla strada che da Mentana porta a Monterotondo. Garibaldi è accorso, ma si è dovuto ritirare. Lo scontro di Mentana è costato caro ai garibaldini. Sono morti in 150, 220 sono stati feriti, 1700 catturati. Se si aggiungono i caduti, feriti e catturati dei giorni precedenti, da Villa Gloria al lanificio Aiani, la sconfitta si mostra in tutta la sua durezza. A ripassare i confini del Regno d'Italia sono stati in 5.000, erano partiti in oltre 8.000. Per di più Garibaldi è stato arrestato e mandato in fortezza. A Roma invece si è festeggiato, molte grida di viva la Francia, e il Papa, che ha visitato anche i prigionieri feriti, ha pubblicato una lettera apostolica con cui istituisce una speciale onorificenza per chi ha partecipato allo scontro. Si chiama Ex Quo Infessissimi e vi si legge: una banda in armi osò avvicinarsi alle mura di Roma per tentare un assalto allo scopo di sfogare il trattenuto furore con gli incendi, col saccheggio delle case, con la distruzione dei templi e col sangue degli onesti cittadini. Ma i nostri soldati non mancarono al loro dovere. Scoperte le insidie, infatti, resero vana la perfidia dei congiurati e, avendo sgominata e uccisa una parte di essi e un'altra parte gettata in carcere, salvarono questa sede della religione, questa dimora delle arti belle dall'imminente sterminio. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.